Con Damiano Ricci di BIM Distribuzione per parlare del film Un affare di famiglia di Koreeda Hirokazu in sala da giovedì 13 settembre. Damiano, ben trovato. Bentrovati a voi, buongiorno a tutti. Descriviamolo. Allora, beh, difficile da descrivere il film di Hirokazu Koreeda, difficile perché io non mi sbilancio mai, ma questa volta veramente posso dire che si tratta di un film meraviglioso. Non lo dico io, certo, non posso dirlo io che sono l'oste, tra virgolette, per quello che poi promuovo e per ciò che esce al cinema per quanto riguarda la BIM, ma lo dicono tutti i maggiori critici. E lo dice uno dei prestigiosi che è Cannes, dove il film ha vinto il riconoscimento più importante, cioè la Palma d'Oro. È un film meraviglioso per tante ragioni. Il cinema di Roberto Corelli è un cinema facile, da un certo punto di vista è infinitamente complesso. È facile perché le storie che Corelli racconta sono delle storie semplici, delle storie che ruotano attorno a gruppi di famiglie. La famiglia è il tema principale di questo regista. E la famiglia che racconta Corelli pretesto per parlare d'altro, per parlare del Giappone contemporaneo, per parlare dei legami e delle relazioni umane, per parlare anche di politica, come secondo me questo film fa in una maniera molto delicata, in una maniera molto, come dire, sensibile e allo stesso tempo veramente, come dire, rarefatta, ecco, senza entrare in discorsi, senza attirarsi, come spesso fanno film che trattano argomenti, diciamo, sociali. Pensiamo al cinema di Bellocchio, pensiamo anche al neorealismo italiano. Ma è proprio da questo tipo di film che il cinema di Koreeda prende vita. E veniamo appunto a Una storia di famiglia. Una storia di famiglia è un film che racconta un gruppo di familiare, un gruppo familiare che però è, questo lo si capisce dopo pochi minuti del film, è una famiglia assolutamente artificiale, non è una famiglia naturale. Assemblata così. Esattamente, è una famiglia assemblata nel senso che, e la cosa eccezionale di questo film è di far sembrare tutto questo assolutamente naturale, questo gruppo si è costituito attorno a dei legami che sono nati spontaneamente. E questo non è nuovo nel cinema di Koreeda. Noi, devo dire, con coraggio nel 2013 abbiamo cominciato a distribuire questo regista di cui siamo assolutamente innamorati, è il primo film che è stato distribuito in Italia al cinema, che è Father and Son. Parlava anche in quel caso di due famiglie in cui i bambini si erano praticamente non stati scambiati alla culla alla nascita. E quindi si stava già componendo quel ritratto e quello studio familiare che Koreeda poi sviluppa e porta alla massima espressione in questo film. Perché in Father and Son il conflitto principale del film era qual è il legame che si crea tra un padre e un figlio: il legame naturale, che è il legame di sangue, o il legame affettivo? In Una storia di famiglia questo elemento forte presente in quel film viene ulteriormente sviluppato. Fammi dire, insomma, prendo altri 2 minuti per dire che Come no? il cinema di Koreeda, come dicevo, è un cinema naturale, ma è complesso perché Koreeda in questo caso costruisce un universo simbolico, un universo diegetico, diciamo, un racconto, dove praticamente la composizione di questo nucleo familiare all'interno del film sembra assolutamente una cosa naturale, spontanea, ed è questo, diciamo, il gesto simbolico forte di Koreeda, cioè riesce a creare un'opposizione enorme tra questa famiglia, che agli occhi delle persone, diciamo, comuni sembra essere quasi, cioè, una famiglia che ha commesso dei reati, e tra l'altro, le altre cose, il modo di vivere di questa famiglia è assolutamente non comune, nel senso che questi ragazzi rubano nei supermercati per poter mangiare qualcosa, la nonna di questa famiglia prende la pensione da un'altra famiglia grazie alla quale riesce a far vivere questo nucleo familiare. La sorella minore di questa famiglia lavora in un peep show per poter portare i soldi a casa. Sembra tutto assurdo agli occhi delle persone comuni, e invece la naturalezza, diciamo, e l'affetto che regna all'interno di questa famiglia fa diventare questo nucleo familiare qualcosa di veramente rivoluzionario, ed è questo poi il gesto politico forte di questo film. I legami, gli affetti possono creare un mondo, un universo, un modo di vivere che può assolutamente, come dire, contrastare quello che poi è il modo tipicamente occidentale, orientale, ma moderno, postmoderno, che viene espresso dalla società di oggi. Questo, secondo me, è il messaggio forte di questo film. Vi consiglio veramente a tutti di vederlo. Sì, c'è anche un passaggio chiave in questo senso rispetto anche a come viene concepita la famiglia biologica, rispetto al rapporto con la bambina piccola e la protagonista femminile di questa storia. Nel colloquio che ha con una poliziotta dice: il partorire non fa di una donna una madre, e questo mi sembra un passaggio chiave del film. Come anche le valenze, mi sembra molto un film al femminile, viene fuori sicuramente la centralità di questa protagonista femminile che è dotata di grande generosità e capacità d'affetto, mentre il padre, chiamiamolo così, il marito, tra virgolette, è un po' più infantile e per certi versi vigliacchetto. Però, insomma, nel complesso è veramente un grande ritratto. Sì, guarda, io, noi, insomma, ti ripeto, siamo veramente orgogliosi di poter distribuire questo film. Siamo oggi in 90 copie, che sono un numero veramente molto alto per un film giapponese, probabilmente anche il più alto in film giapponese, quantomeno negli ultimi anni. Non è facile distribuire cinema giapponese in Italia. Speriamo veramente che comunque con questo riconoscimento importante il pubblico e con questo endorsement praticamente da parte dei critici e dei giornalisti di tutto il mondo, il pubblico possa trovare il tempo di godersi per 1 ora e 40 un film che ha veramente un forte messaggio. Insomma, noi, fammi dire solo quest'ultima cosa, abbiamo visto che il cinema di Corea, appunto, lo riteniamo un film cinema facile ma oscuro per altri versi, abbiamo insieme al sindacato critici italiani mandato oggi al primo spettacolo alle 20:30 più o meno quasi ovunque in tutta Italia un critico che possa introdurre il film agli spettatori. A Roma saremo a Quattro Fontane, ci sarò io e ci sarà Francesco Cristino, che è docente di linguaggio audiovisivo al DAMS di Roma 3, alle 20:15 a parlare del film prima dell'inizio dello spettacolo. Consiglio veramente a tutti gli ascoltatori di poter correre, in particolare a Roma, visto che insomma qui siamo soprattutto su Roma, e di poter sentire dalla viva voce di un critico appunto un inquadramento che permetta di godere appieno un film che ha veramente molte sfaccettature. Un affare di famiglia, un film di Koreeda Hirokazu, un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci di Bin Distribuzione che lo distribuisce a partire da giovedì 13 settembre. Damiano, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto!